All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sogliono uscire in guerra, Joab, alla guida di un forte esercito, devastò il paese degli Ammoniti, quindi andò ad assediare Rabba, mentre Davide se ne stava a Gerusalemme. Joab espugnò Rabba e la distrusse. Davide prese dal capo di Milcom il diadema e trovò che pesava un talento d'oro. In esso era incastonata una pietra preziosa. Il diadema fu posto sul capo di Davide. Questi portò via un ingente bottino dalla città. Deportò anche la popolazione che si trovava in essa e la condannò alla sega, alle trebbie di ferro e alle asce. In questo modo Davide si comportò con tutte le città degli Ammoniti. Quindi Davide con tutti i suoi fece ritorno a Gerusalemme. Dopo di ciò si ebbe a Gezer una battaglia contro i Filistei. Allora Sibbecai di Cusa abbatté Sippai, uno dei discendenti dei Refaim. I Filistei furono assoggettati. Ci fu un'altra guerra con i Filistei. Elcanan, figlio di Jair, uccise Lacmi, fratello di Golia di Gat. L'asta della sua lancia era come il subbio dei tessitori. Ci fu ancora un combattimento a Gat, in cui si trovava un uomo altissimo che aveva le dita 6 a 6, cioè 24 in tutto. Anch'egli discendeva da Rafa. Questi ingiuriò Israele e Jonata, figlio di Simea, fratello di Davide, lo uccise. Questi uomini erano discendenti di Rafa in Gat. Essi caddero per mano di Davide e dei suoi ufficiali.